Siamo tutti restati di sale, per non dire di peggio, quando l'onorevole Fini, martedì scorso, ha rilasciato da Gerusalemme le ormai note dichiarazioni sul fascismo, le leggi razziali della Repubblica di Salò. Avremmo dovuto aspettarcelo invece, perché l'individuo ci aveva già spiazzato qualche settimana fa con l'idea di far votare gli immigrati, ma allora eravamo riusciti facilmente a inquadrare l'iniziativa nella sua eterna rissa con Bossi, e poi la proposta si era rivelata all'atto pratico ben povera cosa, per cui avevamo potuto esimerci da un giudizio. Ma adesso delle inopinate resipiscenze del segretario dell'SMSI dobbiamo in un modo o nell'altro prendere atto. Siamo liberi tutti naturalmente di nutrire i più igienici dubbi sulla sua sincerità personale, e io qualcuno ne nutro, vi dirò, o di chiederci quali siano le sue vere motivazioni, o quanta parte del suo partito, dei suoi collaboratori e del suo elettorato sia disposto a seguirlo. Ma quella dichiarazione di principio sul fascismo male assoluto resta, e visto che in politica le dichiarazioni di principio contano anche quando sono false o insincere, e non ci si può proprio passare sopra. Naturalmente sarebbe ingiusto, è un po' cinico, per chi ha agitato la pregiudiziale antifascista per tanti anni, far notare che è facile dissociarsi da politiche e ideologie del passato quando si sa che dalla operazione scaturiranno vantaggi sostanziosi nel presente, come la cooptazione a pieno titolo tra i leader di quella nuova destra internazionale di cui Shalom, lo si voglia o no, è uno dei punti di riferimento. Le conversioni ideologiche in un paese in cui a capo del partito che ha preso il posto della Democrazia Cristiana si trova un ex radicale non sono esattamente una novità. Ma ci sarà ben un motivo per cui Fini ha deciso, volente o nolente, di fare quella clamorosa autocritica, mentre il suo boss continuava a sbraitare su Mussolini tutto sommato benevolo, su un fascismo che non ha mai mandato a morte nessuno. E non si può neanche rispondere che Berlusconi è quello che è, non c'è niente da fare, perché a non compromettersi sul passato regime in un modo o nell'altro sono sempre stati ben attenti tutti gli esponenti di peso del suo partito, né si può dire che i vari Pera, Casini e compagnia bella si siano mai sprecati sull'argomento. Io personalmente ho sospetto che sia in gran parte una questione di percorsi politici. Fini in fondo, tra i leader del centrodestra, è quello che più affonda le radici nella Prima Repubblica, dalla quale ha traghettato nella seconda il suo partito completo di nipote del Duce, reduci della Folgore e guardia d'onore a Predappio. Ne ha cambiato nome, sì, ma è difficile considerare un ex segretario del Fronte della Gioventù ed ex delfino d'Almirante come l'esponente perfetto dei tempi nuovi. E nella Prima Repubblica, se non altro per motivi storici, il problema del fascismo si poneva. Non so se Fini abbia mai creduto personalmente in quella ideologia, perché in fondo sono fatti suoi, ma è certo che prima di farsi entusiasticamente sdoganare da Berlusconi nel fascismo come insieme di valori, con tutte le virgolette del caso, ha scommesso o investito. Diciamo che ha assunto nella forma ambigua in cui si fanno queste cose in Italia un certo numero di impegni ideologici, e sono quelli appunto che oggi gli si sono rivelati insostenibili. Figuriamoci se qualcosa di tutto ciò può riguardare Berlusconi. Lui di impegni non ne prende mai, lui si riserve sempre il diritto di dire tutto il contrario di tutto, di essere fascista e antifascista, laico e baciapile, innovatore o strenuo difensore della tradizione, a seconda delle immediate necessità del dibattito. Il suo unico sforzo ideologico è quello della piacenteria. Ha detto mesi fa che Mussolini era buono non perché aderisse sul serio all'ideologia del fascismo. Il vero fascista, tra l'altro, non vuole essere definito buono, vuole essere definito duro, forte, maschio, virile, marziale e quant'altro. Lo ha detto perché il buonismo è una delle componenti della melassa comunicativa in cui lui sguazza comunemente. Quello del fascismo buono è un mito caro alla piccola borghesia, la classe che di Berlusconi, nonostante le sue personali fortune, rappresenta un referente sociale, che è poi la classe per la quale le contraddizioni ideologiche contano poco e il ruolo del cattivo spetta esclusivamente a chi la tocca nel portafoglio. Felicemente scollatosi dalle vecchie etichette, anche Fini è libero oggi di confondersi nel grande circo Barnum del berlusconismo. E suppongo che progetti di farvi carriera, e di occuparmi presto tardi il posto del capocomico. Staremo a vedere e nel frattempo gli garantiamo per sua e nostra tranquillità che continueremo a considerarlo un nemico. Ma è significativo il fatto che per migliorare le proprie possibilità in quel senso abbia dovuto, unico tra i pari grado, pronunciare la sua brava abiura. In quella compagnia di transfughi e di riciclati, probabilmente anche lui doveva essere transfuga di qualcosa. A proposito, un'altra cosa. Martedì scorso, Fini non è stato l'unico personaggio del pre-berlusconismo a stupirci. Spero che condividiate tutti con me una sia pur riluttante ammirazione per quanto ha dichiarato in quel giorno il senatore a vita Emilio Colombo. Non perché abbia ammesso di essere un assuntore, sia pure in data recente, di cocaina, sono anche questi fatti suoi, in cui nessuno dovrebbe avere il diritto o l'interesse di immischiarsi. Ma nella fermezza con cui l'anziano notabile Doroteo ha affermato che sì, quella sostanza era destinata proprio a lui e i suoi collaboratori quindi andavano esentati da ogni sospetto, che volete che vi dica, ho avvertito una certa grandezza. Certo, lui non rischiava niente, è improbabile nella sua condizione che sia convocato dinanzi al prefetto e, come prescrive la legge, orbato con provvedimento amministrativo di passaporto e patente, e né si può pensare che alla sua età ambisca la ripresa di una carriera politica che gli ha dato praticamente tutte le soddisfazioni che ne poteva auspicare. Ma in questo mondo di magnati ingenui raggirati da staglieri malavitosi, di vice ministri distratti messi nei guai dalle iniziative di improvvidi segretari, di alte personalità eternamente fraintese da intervistatori distratti, in questo mondo in cui io non ne sapevo niente, ma che cosa avete capito mai, potrebbero fungere da impresa araldica sul sigillo del capo del governo e dei suoi principali collaboratori, in questo mondo imbattersi in un personaggio che per una volta non cede alla tentazione di gettare una responsabilità qualsivoglia su qualcun altro è una vera consolazione. E quella prima repubblica che ci eravamo affrettati così imprudentemente ad archiviare continua a riservarci delle sorprese.